America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York, Mario Platero. Here you go, it's going up to 580. It's ripping right now and after hours. That's that 580 with the close, that's a $20 hook. Apple Computer di nuovo, inevitabilmente, in the news. Perché? Beh, perché dopo aver comunicato i risultati trimestrali, ha colto di sorpresa analisti e investitori che si aspettavano un andamento, diciamo così, poco soddisfacente. E come sapete, c'è molta tensione sul titolo Apple, perché ha raggiunto una capitalizzazione di quasi 570 miliardi di dollari, ha avuto un aumento dall'inizio dell'anno a oggi di quasi il 40%, quando sembrava, dopo gli aumenti dell'anno scorso, che fosse impossibile che continuasse a crescere. Dunque c'era molta, molta tensione, molta prudenza. Bene, cosa ha fatto Apple? Ha comunicato un aumento dei profitti del 94%. Nel corso del trimestre, profitti per 11 miliardi di dollari. Risultato: il titolo è balzato sul mercato di quasi il 10%. Pensate che l'aumento in un sol giorno nella capitalizzazione di Apple Computer è stato di 50 miliardi di dollari. 50 miliardi di dollari tranquillizzerebbero, io credo, i sonni del nostro presidente del Consiglio Mario Monti, se per caso li trovasse da qualche parte. Ecco, un'azienda come la Apple fa un aumento del titolo in un sol giorno di questa cifra. Ci sono dei problemi attorno ad Apple, si è aperto un dibattito, perché il valore di questa azienda è talmente elevato da aver creato dei problemi al Nasdaq, perché uno spostamento al rialzo o al ribasso finisce per muovere al rialzo o al ribasso l'intero indice di borsa, al di là di quella che dovrebbe essere una media normale, soprattutto una media in relazione, diciamo, coerente con il movimento degli altri titoli. Ci sono però anche preoccupazioni per il futuro dei prodotti, perché si dice: ma insomma, che cosa farà questa Apple? Sta continuando a vendere una gran quantità di iPhones, una gran quantità di iPad, però i prodotti sono quelli. Cosa succederà fra 2 anni? Cosa succederà fra 3 anni? Ecco, c'è naturalmente un asso nella manica. Vorrei farvi ascoltare questa chiacchierata con Walter Isaacson. He would focus on the products. He knew the couple of things he wanted to do, which was the iPhone and then the iPad. He had a few other visions. I think he would have loved to have conquered television. He would love to make an easy to use television set. Ho visto Walter Isaacson qualche giorno fa all'University Club, dove ha raccontato una serie di retroscena, di cose molto interessanti nel suo rapporto con Steve Jobs, nello scrivere questo libro, e soprattutto ha parlato appunto dell'asso nella manica. Perché? Beh, perché è stato proprio questo libro che ha rivelato per la prima volta che Steve Jobs era riuscito a crack down il code, insomma era riuscito a rompere il problema, a risolvere il problema per il suo nuovo prodotto, un nuovo televisore. Un televisore interattivo, modernissimo, straordinariamente rivoluzionario. Ora tutti noi possiamo chiederci: ma cosa ci può essere di rivoluzionario in un televisore? L'unica cosa rivoluzionaria può essere magari un telecomando più semplice da usare, e credo che proprio di questo si tratti, un televisore molto semplice, ma allo stesso tempo in grado di poter essere direttamente collegato con internet e di avere funzioni multiple. Di questo progetto non si sa nulla, e l'altro giorno Walter Isaacson ha detto: beh, io devo dire, nel libro ho soltanto dato notizia che c'era questa idea, però Steve Jobs mi ha chiesto di non dir nulla perché questa notizia riguarda un prodotto, anche se mi ha raccontato alcuni dettagli, e quindi non si può dire nulla di questo prodotto fino a quando non sarà fuori. Dunque io, in onore della sua memoria, rispetto questo suo desiderio. C'è stato un piccolo giallo attorno a questo televisore, perché a un certo punto il designer francese Philippe Starck ha detto che stava per annunciare qualcosa di rivoluzionario legato a Steve Jobs. Allora tutti hanno pensato che forse aveva disegnato lui questo televisore. Invece, altra curiosità nella curiosità, Philippe Starck è stato ingaggiato dalla famiglia Jobs per disegnare una nuova barca con uno scafo fatto di vetro, pensate, uno scafo trasparente dal quale si può vedere direttamente l'oceano. Comunque sia, il prodotto nuovo c'è, sembra che sarà annunciato formalmente forse già in giugno, in luglio, comunque nel giro di pochi mesi. Le polemiche restano per il peso specifico enorme di questa azienda. Io con me ai microfoni di America 24 Marco Valsania, che è il nostro corrispondente qui da New York, che si è occupato molto di Apple di questi giorni. Buongiorno Marco. Buongiorno. Allora Marco, varie notizie su Apple Computer, preoccupazioni sul mercato, poi però l'Apple gioca di rilancio, addirittura riesce a fare da traino per i mercati europei, cioè sembrava che ci fosse una nuova crisi, arriva Apple e diciamo ritorno. torna l'ottimismo. Cosa ci dici di Apple? Apple ha sicuramente dato un bilancio al di là di ogni aspettativa, dimostrando di saper sia continuare a innovare e vendere i suoi nuovi prodotti. L'iPhone in particolare, l'ultimo prodotto di punta, cioè il nuovo modello di iPhone 4S, che ha venduto al di là delle attese, ha venduto oltre 35 milioni di esemplari nel trimestre, quasi quanti nel trimestre precedente, che era stato il trimestre di lancio, il trimestre natalizio. L'altro elemento fondamentale è stata la capacità di allargare il suo raggio d'azione, di allargare i mercati in cui sfonda. Questi mercati quali sono? Dove sono i nuovi mercati dove Apple prevale? Ecco, i nuovi mercati sono in questo momento i mercati emergenti e più forti, in particolare i mercati asiatici, in particolare la Cina. Nell'ultimo trimestre le vendite in Cina, rivelato Apple, sono quintuplicate e dovrebbero continuare a crescere, perché la Apple ha in cantiere ulteriori accordi con altri carrier cinesi che dovrebbero consentire di rafforzare la sua penetrazione sul mercato, diciamo, emergente top. Una curiosità: come vedi questo problema della dimensione di Apple, per esempio sul Nasdaq, sull'indice Nasdaq? Sicuramente questo è una delle conseguenze di questa marcia inarrestabile al momento di Apple, e bisognerà vedere se a un certo punto il mercato dovrà riequilibrare il peso di Apple sui grandi indici. Al momento certamente è in grado di generare volatilità su questi indici, come ricordavi tu, il peso sul Nasdaq è del 12% il peso di Apple, e quindi un'oscillazione del titolo è in grado di muovere l'intero indice in modo abbastanza brusco. Il nuovo prodotto, accennavo prima alla televisione, cosa sai di questo televisore, Marco? Come la vedi questa storia? Sicuramente questa è una delle nuove frontiere, una delle grandi scommesse della pipeline futura di Apple. Come ricordavi, si sa molto poco. Dovrebbe essere fondamentalmente un prodotto, un servizio in grado di fornire servizi di streaming televisivo. Il nuovo televisore di Apple potrebbe a un certo punto essere svelato entro l'anno, questo nuovo televisore Apple, ma ricordiamo, è anche solo uno dei nuovi prodotti. Un nuovo iPhone di nuova generazione dovrebbe essere lanciato comunque in autunno, nuovi computer portatili Apple dovrebbero essere introdotti a loro volta quest'anno, ecco, quindi la pipeline di Apple dovrebbe rimanere piuttosto robusta. Qualcuno ritiene che sia una pipeline talmente buona da durare almeno 3-4 anni, già così come stanno le cose, e sicuramente Apple ha le risorse per investire nel rafforzare questa pipeline. Ricordiamo che in questo trimestre il suo forziere, diciamo, le sue riserve in contanti sono aumentate a 110 miliardi di dollari dai 100 miliardi di dicembre, quindi la quantità di capitali, di contanti, di liquidità che Apple ha per investire, non solo nel dare un dividendo o nei buyback azionari per premiare gli azionisti, ma nella produzione, nelle innovazioni, sono enormi. Ecco, infatti c'è stata questa operazione per cui a un certo punto l'Apple ha annunciato che queste enormi riserve di contanti l'avrebbe restituita alle azioniste, ma solo in parte. E giusto per dare un'idea della dimensione, la riserva in contanti di cui ci parlava Marco Valsania basterebbe a rimettere a posto l'intero debito della Grecia. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguitemi su Twitter, @MarioPlatero, scriveteci su Facebook. Ed eccoci alla canzone del giorno: a 50 anni dall'uscita del loro primo album, Surfing Safari, nel 1962, i Beach Boys sono tornati a suonare insieme. Sono partiti per un lungo tour americano e hanno diffuso proprio ieri il loro primo nuovo single da molti anni a questa parte. Questo singolo fa parte di un long playing che uscirà il 5 giugno. Eccolo, dei Beach Boys, That's Why God Made the Radio. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a lunedì. Goodbye and get going! America 24.